Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? See the new? Dopo altri suoni, Pubblicità Magazine, la rubrica del lunedì che ci accompagnerà, aleggiano i magazine per tutta la settimana, anche in redazione, restano per un libero consulto per quanto riguarda l'ispirazione culturale tra teatro, cinema, letteratura, arte. E intanto cominciamo proprio dalla letteratura in intersezione con il cinema. Siamo a pagina 12 dalla Stampa. A grande richiesta, un reportage letterario. Ian Fleming, un turista a servizio di Sua Maestà, appassionati di 007. Ecco, alla fine degli anni 60 lo scrittore inglese compie per il Sunday Times due viaggi tra Estremo Oriente e Stati Uniti d'Europa, i traffici di diamanti, la mafia, le geishe. Nei suoi articoli ci sono temi e situazioni che fanno da cornice ai romanzi di 007. Ian Fleming, 1908-1964, il creatore di James Bond, il più famoso agente segreto della storia della letteratura e del cinema. Dopo gli inizi come inviato dall'agenzia Reuters a Mosca, una breve esperienza da broker nella City, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Fleming entra nei servizi segreti della Marina Britannica. Finita la guerra nel 1946, passa a organizzare i servizi esteri del gruppo Sunday Times. Nel 1953 pubblica il romanzo Casino Royale, che ha un successo immediato, e poi quante altri ne hanno scritti per quanto riguarda la fantasia di Ian Fleming, che diventa una fantasia quanto mai di esperienza concreta, con quello che abbiamo trovato non solo sul grande schermo ma anche in una vita che l'avventura l'ha vissuta veramente. È un reportage letterario, già delle immagini anche fotografico, che ci porta a un saggio, The Thrilling Cities, con la traduzione di Andrea Carlo Cappi, con la curatela e introduzione di Massimo Bocchiola. In parte è stato pubblicato qua da Tutto Libri ed è interessante conoscere come poi le avventure di 007, se siete appassionate o appassionati di spy story, siano state veramente ispirate, ed è certo, da una realtà, ok, ma è una realtà vissuta in questo caso da Ian Fleming. Io non ho una grande passione per le saghe, ciò non toglie che ne ho un grandissimo rispetto, curiosità, e nello stesso tempo ne resto anche affascinato, anche perché hai voglia a non restare affascinato dai personaggi, dalle bellezze anche, e allo stesso tempo dalle icone che hanno fatto grande un personaggio, che diventa qui nell'articolo portato da chi ha curato questo lavoro un turista a servizio di Sua Maestà, Ian Fleming. E per quanto riguarda le ambientazioni, che nella maggior parte dei casi, o tra gran parte dei casi, come l'Estremo Oriente, possiamo trovare nelle spy story, arriviamo ai giorni nostri, e questo lo troveremo nei Voltiamo Pagina. Ecco, in questo caso i magazine hanno ispirato un Voltiamo Pagina, chissà se già da questa edizione o già un altro lavoro, che tra l'altro è portato dai magazine allo stesso modo. Questo però è un autore che conosco già, che amo tantissimo, è Lawrence Osborne. Ricordate, uno dei quasi premio Pellegrino di Cacciatori nel buio, di cui vi ho parlato tanto, magari ve ne parlo ancora perché è un libro veramente molto bello. Ecco, ritorna con Java Road. Lawrence Osborne, oltre che d'avventura, spesso confuso secondo me come un autore di libri che sono diari di viaggio, per me non è un termine che ci azzecca molto con la scrittura di Lawrence Osborne. Lui è un romanziere contemporaneo di fantasia e quanto mai capacità espressiva di coinvolgimento. Di Cacciatori nel buio ne parleremo a breve, perché intanto facciamo uno stacco musicale e poi torniamo per conoscere non solo questo nuovo lavoro, che voglio leggere al più presto. Hong Kong tramonta e non si salva nessuno. Lawrence Osborne. It's Talmente bello Cacciatori nel buio, e se lo mettessi in palio. Let's just face it, all it takes is basic love. Confuso Lawrence Osborne come scrittore di diario di viaggio, perché lui è veramente, sembra a me colpo lesine quando parla dell'estremo oriente, della Thailandia, di tutti quei paesi, del Laos, del Vietnam. Lui veramente ne ha un amore e ovviamente traspare nella scrittura che va ad esprimere Lawrence Osborne, scrittore inglese, per me uno tra i talenti più illuminati e più specchiati per la letteratura contemporanea. Dice: si mangia male, il cielo è sempre grigio, qua i villaggi sono di fango, sono tutti indaffarati, vanno tutti di corsa in questi mercati dove non si capisce niente. Perché non posso farne a meno? Dice: perché mi piace così tanto? Perché c'è un aspetto nel nostro animo che secondo me si chiama microsensazione e non possiamo farci nulla, eh? Se ci piace ce ne innamoriamo probabilmente dalla prima volta, esattamente grazie ai difetti, chiamiamoli così. Io li chiamo sempre caratteristiche, ma caratteristiche che per i più sono difetti, mentre per noi diventano improvvisamente parti innamoranti fondamentali. Non riusciamo a capire perché. Chi riesce a tradurre insieme a noi questi perché probabilmente è una persona da tenere da conto, da ascoltare. Porterete la vostra parte di microsensazione e lei aggiungerà l'altra parte, arricchendo il perché di questo mistero legato alla passione, all'aspetto territoriale in questo caso, eh. Comunque Cacciatori nel buio è questo protagonista che si trova in Thailandia e tristissimo perché deve tornare a fine vacanza. Lui è un insegnante, è un travè, è un maestro e quindi anche annoiato. Lui single e tutti i soldi che riesce a mettere da parte durante l'anno li impiega poi per questo viaggio nell'estremo oriente, contentissimo. Quando lì è felice, contento, ma è finita la vacanza, bisogna rientrare. Living on borrowed time. avanza pochi spiccioli, avanza qualche soldino. Lì è molto diffuso il gioco d'azzardo, eh? Beh, che succede? Lui entra in una sala da gioco e questa piccola cifra dice: dai, secca, la butto lì, succeda quel che succeda. Accidenti, succede. Vince una cifra e dice: ok, potrò stare qualche giorno in più in vacanza. È una cifra modesta, è una cifra, ma se pensiamo alle condizioni economiche del luogo, diventa una cifra che è un patrimonio veramente importante. E da lì, a sua insaputa, lui sarà la preda di questi cacciatori nel buio che ovviamente vogliono accaparrarsi la vincita. La bellezza della narrazione qual è? È che lui non sa di questa sua problematica, chiamiamola così, non sa di essere preda di questi cacciatori nel buio, appunto già dal titolo. E quindi lascerò a voi magari la scoperta del finale di questo lavoro molto molto bello di Lawrence Osborne. Di Lawrence Osborne esce un altro lavoro, ne sono molto curioso, guarda te il titolo: Java Road. Un giornalista inglese alla deriva nella città sconvolta dalle proteste e dalla repressione, un amico ricchissimo ha la comune passione per la poesia cinese e una ragazza che scompare. Lawrence Osborne dissemina Java Road di misteri e indizi. Java Road è il suo ultimo lavoro. Conosciuta grazie a Dusty Springfield, ma adesso che ci penso l'ho proposto da poco dagli Evergreen per la label AC Jazz. Perdonate, ma questa versione molto rock blues mi affascina particolarmente, quindi ho voluto riproporla. È capitata, ho pazienza. Male male non fa. Beh, male non fa continuare a leggere magazine cambiando ancora da Tutto Libri al Corriere della Sera con la lettura a Robinson di Repubblica. Sia Robinson che la lettura, entrambi si possono trovare in edicola per tutta la settimana. Tutti i magazine, secondo me, sarebbe buon segno farli trovare in edicola per la durata della settimana, in quanto gli articoli culturali sono veramente molto belli. Oltre che portare una modalità di lettura ben diversa, che non sia legata a un giornalismo mordi e fuggi, gli approfondimenti decisamente sono qualcosa di più interessante. Pagina 1, pagina 2, long format invece di Robinson, e per un altro grande protagonista, James Ellroy, che dà, per quanto riguarda la storia degli Stati Uniti d'America, il sogno americano infranto, il lato oscuro di JFK, la fragilità di Marilyn a 60 anni dagli spari di Dallas. Sarà motivo di quiz per avere i cacciatori nel buio. Lo scrittore torna a raccontare la storia nera del suo paese con il nuovo attesissimo romanzo The Enchanters, che arriverà in Italia la prossima primavera. Ha preso in anticipo e qui ci rivela perché siamo ancora ossessionati da quel mito. Fra l'altro, per quanto riguarda i lavori di James Ellroy e LA Confidential, uno tra quelli più conosciuti, e dagli altri lavori su questa linea che troviamo il sogno americano, che non è rimasto nulla perché non è mai esistito, come non è mai esistita la sua innocenza. L'unica cosa che continua a perdurare è la sua vitalità, e non è poco. Beh, un approfondimento interessante in prima pagina su Robinson, il profilo di JFK, il lavoro di Ellroy che è titolato Io e JFK, lavoro tratto in articolo in prima pagina da Robinson. E allora, visto che abbiamo parlato tanto di spy story iniziando i nostri magazine, li concludiamo questa prima parte anche con un agente segreto, The Secret Agent Man. Prima però, he's a stranger with every move he makes. Another chance. Per avere Cacciatori nel buio, edizione Adelphi di Lawrence Osborne, al 333-180-9494. Chi era l'uomo di paglia che dissero ha sparato JFK? Mi dite il suo nome? Ok, svelate il suo nome, e per voi, Cacciatori nel buio, chi era l'uomo di paglia indicato da FBI e CIA per quanto riguarda l'omicidio Kennedy? A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say. Don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. One day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Only got a number, secret agent man, they've taken away your name. Secret agent, secret agent, he is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent. E nuovamente in diretta alle 8:37 minuti. Abbassiamo la musica di Mo Horizon per la Stereo Deluxe Disco, che mi ha tenuto compagnia anche nell'ultimo weekend, come mi hanno tenuto compagnia i Magazine. Per voi in palio Malvincitore, e ne sono ben contento, perché un lettore accanito è Luigi. Risposta esatta: Lee Oswald, uomo di paglia per l'omicidio Kennedy. JFK, abbiamo parlato dello scrittore che è in prima pagina per quanto riguarda Robinson di Repubblica, con un long format dedicato a questi lavori di cui lui stesso ha dato ampio approfondimento. James Ellroy, il sogno americano infranto, il lato oscuro di JFK. Interessante la sua conclusione: il sogno americano non è mai esistito, il sogno americano però è ancora pieno e inizia per una continuità a dare e perdurare nella sua vitalità, ed è molto importante. E questo infatti dà ampio motivo di riflessione, come questa illusione, no, riesca a dare una continuità. Comunque, ciò non toglie che alla domanda risposta esatta di Luigi, per cui il libro Cacciatori nel buio, nell'attesa di Java Road per la presentazione al Voltiamo Pagina, è stato vinto ed è stata ulteriormente arricchita la biblioteca di Luigi. So che è un accanito lettore e ne sono molto contento. Do il buongiorno anche a Paolo, m'era sfuggito il tuo SMS. Buongiorno Paolo. Per le pagine culturali invece del Manifesto esco un attimo dai Magazine, perché doveva essere l'articolo di apertura, no? Poi invece ho trovato un filo conduttore per quanto riguarda le narrazioni, le miopie, gli strabismi per quanto riguarda la propaganda, quello che vuol portare la propaganda. Storia di tutto ciò nel giornalismo e nelle notizie diffuse con un'atrocità dannata. Siamo sul Manifesto, dove bambini mutilati, seni tagliati alle donne, Israele contro Hamas, punto di domanda, no, Gran Bretagna contro il Kaiser nel 1915, sempre a colpi di fake news. Prima le donne e i bambini, si diceva, no, soprattutto tra i marinai, mettete in salvo prima le donne e i bambini, si salvi che può. E poi i propagandisti anche a noi hanno dato in pasto questa notizia, ma nella tragedia, nella parte più cruenta e truculenta, le prime vittime sono appunto civili. Ma il resoconto tremendo che leggiamo in conclusione all'articolo: la propaganda alleata partì appena la Germania invase il Belgio, dove in un mese di guerra morirono 5.000 civili. A Gaza sono stati il doppio. Ecco, tanto per portare, no, all'attenzione determinati aspetti. Sapete come i numeri a volte siano facilmente motivo di confusione, a me per primo, ma in questo caso direi di restare assolutamente lucidi, in quanto la realtà è ben diversa molte volte da come ci viene raccontata. Bambini decapitati che sono stati smentiti, ma nella stessa Ucraina, dove strappati i denti d'oro dei prigionieri di guerra, alcuni ancora vivi, veniva riferita dalla propaganda NATO. Poi salta fuori un dentista e dice: no, guardate che queste sono le mie protesi, anzi, se volete restituirle fate una cosa giusta, assolutamente. Per cui, come la propaganda in questa storicità e atrocità dannata, a pagina 16, nell'ultima pagina del Manifesto, che era in edicola domenica appena trascorsa, cioè ieri, potete tranquillamente recuperarlo. Beh, ogni tanto la rete ci viene in aiuto in questo caso e ci dà una possibilità. Ma per quanto riguarda la rete, vorrei parlarvi di un altro long format che mi pare sia sull'apertura del Corriere della Sera, che tra poco prenderemo. Prima uno stacco musicale con Street Life, lui è il trombettista, restiamo in tema di grandi trombettisti, Herb Albert, dal disco bellissimo Rise. Street Life. diventato il ministro delle finanze in una delle stagioni più turbolente della storia greca ed europea recente. Si è dimesso per non obbedire all'austerità imposta dalla Troica, Fondo Monetario, BCE, Unione Europea, al governo di Atene. Insegna teoria economica, si definisce marxista. Yanis Varoufakis, un grande del nostro tempo, aggiungo io, torna in libreria con un testo che è un manifesto, e anche questo lavoro è molto interessante. Magari il tempo di recuperarlo, poi lo mettiamo in palio, perché è giusto leggerlo, secondo me, per gli ascoltatrici e gli ascoltatori del Breakfast Club. Torna in libreria con questo testo anche per il richiamo al famoso manifesto del Partito Comunista. Tecnofeudalesimo è la prodo finale del capitalismo nei nuovi feudi virtuali. Amazon, Instagram, le nostre menti sono tenute in catene, perciò assolutamente, dice, servi di internet, unitevi, avete il mondo da conquistare e da perdere, avrete soltanto le vostre catene digitali. Questo l'ho aggiunto io perché ci credo in tutto ciò. E da qui a cascata poi è sull'informazione, sull'economia, anche sulla piccola economia domestica. C'è un altro articolo, le famiglie vanno disperdendosi, a me è certo, se la condizione di lavoro è questa dove manca il diritto e dove regna la precarietà e i salari sono sempre al ribasso. Potrei andare a oltranza per quanto riguarda il piccolissimo risparmio, con un click poi, ah, ma che bello il telefonino, possiamo fare tutto con l'home banking. Certo, poi con un click ci bloccano tutto, quei due risparmi riusciti a mettere da parte. Già capitato, non è che stia millantando e facendo fanta politica, è già capitato, porto esempi concreti. E da qui tanti altri aspetti, come può essere nel sociale la comunicazione, quello che è difesa del diritto sul lavoro, protesti, e contro chi protesti? Contro un algoritmo, ecco. Quindi insomma è, come ho detto, lo strumento che certo ci viene in soccorso per quanto riguarda, come ho detto in precedenza, volete rileggere un articolo, ecco, per quanto riguarda altri aspetti è assolutamente da controllare. Così non è stato, anzi è stato completamente dato a soggetto di protagonismo economico e finanziario e poi a poche persone che diventano feudi virtuali come Amazon, Instagram, e potrei andare avanti, e li conosciamo bene purtroppo, che bello, eh. Passiamo al Minotauro. Questo mostro mitologico aveva una fame insaziabile di carne umana. Per tenerlo buono, il re di Creta, Minosse, faceva arrivare ogni tanto una nave piena di giovani da Atene, consegnava il suo tributo umano al Minotauro. Un rituale feroce che consentì però a Creta di estendere la propria rete commerciale. Nel passaggio del nuovo millennio nelle viscere dell'economia americana, procede nell'articolo e nell'intervista a Varoufakis, e in particolare del suo crescente difficile commercio, è nato un nuovo Minotauro ed è affamato di realtà e industria e di commercio in campo europeo, asiatico e soprattutto di capitali finanziari per alimentare Wall Street con l'aiuto dei computer. Affrancarsi di questo sarebbe un buon inizio, dice Yanis Varoufakis, e condivido pienamente. L'apertura doveva essere questa, è stata la conclusione di un percorso che tramite la realtà letteraria ci ha portato a tutto ciò nella nostra rassegna stampa culturale dei magazine, che vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Oggi un CD in omaggio di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio, il disco Purple, e a seguire il libro di Lawrence Osborne, Cacciatori nel buio, per Adelphi, vinti rispettivamente da Simona e da Luigi. Grazie innanzitutto per aver giocato con noi. L'invito ovviamente resta esteso a tutte e a tutti per il Breakfast Club Super Mattiniere e Super Mattinieri dei 103.1. Io vi aspetto puntuali domattina alle ore 7 per avere in Dream Team in studio e in diretta telefonica un approfondimento al Mood Groove sui giocatori altissimi, insieme a Paolo Nofri, Paolo Zanardi, che ritornerà in diretta con noi. Insomma, avremo modo di parlare di questi giganti in tutti i sensi. Grazie per l'attenzione, un buon lunedì, un buon inizio settimana, a breve Liberi Dentro, Edipeo Enciclopedico, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dopodiché lo sport con Mingo & Company e Caffè e Paglia dal vostro William Piana. Non manca di certo un caloroso abbraccio e l'appuntamento a domani. Ciao a tutte, ciao a tutti.